Alberto Oliverio, in Ricordi individuali, memorie collettive, un libro appena uscito e uscito da Einaudi, dedicato ad un bilancio delle nostre conoscenze in fatto di memoria, si chiede in questo libro se si possa ipotizzare un qualche meccanismo di tipo biologico, una sorta di regola naturale, che in qualche modo promuove il senso di appartenenza al gruppo e sostiene le differenze, opponendosi all'omogeneità o all'omologazione culturale. Come domanda è pepata, eh? E infatti ad una risposta vera e propria non ci arriva neppure lui. Da un lato, l'appartenenza ad un gruppo è determinata da un'uguaglianza, ma dall'altro c'è anche la consapevolezza che ogni sviluppo in quel gruppo si avrà soltanto in grazia di qualche differenza. Individuare qualcosa che sia solo e soltanto biologico, capace di governare il fenomeno, beh, è difficile. Quando si passa dal singolo individuo alla collettività, il biologico sembra mescolarsi con il culturale e il comportamento della persona non può più essere studiato che in rapporto alla società in cui vive. Siamo soliti concedere una memoria a ciascuno, unica e irripetibile, ma la biologia ci ha insegnato che qualcosa, nel ricambio delle generazioni, passa da individuo a individuo, diventando patrimonio collettivo. Così è per certi aspetti somatici, per esempio. Così è per il funzionamento del sistema immunitario. Così è presumibilmente per la distribuzione organica delle più importanti funzioni cerebrali. Luciano Canfora, in Libro e Libertà, un altro bel libretto uscito recentemente dalla Terza, in Libro e Libertà dedica tutta la sua attenzione non tanto ai meccanismi culturali con cui si tramanda la memoria, ma ai meccanismi culturali con cui invece si favorisce l'oblio. Interdizioni di libri e roghi di intere biblioteche hanno da sempre accompagnato il gesto dei potenti contro coloro che dovevano obbedirgli. Canfora ricorda il caso della governante di Don Chisciotte, che per vendicare quella che lei ritiene una perdita di ragione da parte del suo padrone, brucia, ritenendoli i veri colpevoli, tutti i suoi libri e, non contenta, fa anche benedire la stanza ove erano conservati. L'acqua benedetta del curato avrebbe tenuto lontano il maleficio di cui i libri erano portatori. In Stargate, un film di Hemerich, un po' fumettaccio, un po' di grana grossa, un film che tenta di coniugare l'archeologia con l'avventura fantascientifica secondo uno stile che anni fa sarebbe piaciuto ad un autore forse oggi dimenticato che si chiamava Peter Colosimo. Si tocca in questo film un punto cruciale a proposito sia di memoria che di potere. Detto alla svelta, si racconta di un cattivissimo, di un mostro spaziale che riesce ad esportare in una galassia lontana un'intera stirpe di terrestri allo scopo, piuttosto banalotto, di metterli a lavorare in miniere da cui ricavare un toccasana a lui indispensabile. In questo pianeta polveroso e cupo il ritmo del progresso è praticamente ridotto a zero. Naturalmente le grandi masse dei lavoratori si guardano bene dall'agognare la benché minima ribellione. Perché? Beh, il segreto è presto detto. Il mostro, ovvero il massimo potere, la divinità, ha imposto la proibizione della scrittura. Così, di generazione in generazione, non si accumula alcunché di culturale e diciamo che si chiude un occhio sul biologico, che di per sé evidentemente conta poco. Bloccata la scrittura, è automaticamente bloccata sul concepimento la ribellione. se non fosse per un manipolo di viaggiatori terrestri testardamente acculturati ai più ostici geroglifici, il male trionferebbe nell'universo. Canfora conclude il suo libro ricordandoci che sul cristianesimo e sulla lettura del Nuovo Testamento si creò un'alfabetizzazione che poi ebbe conseguenze rivoluzionarie sulla stabilità sociale dell'impero romano. Ma questo era sicuramente era un risultato inatteso. Chi avesse visto nel processo di alfabetizzazione un piano preordinato ed un calcolo mirato ad uno scopo si sarebbe sbagliato di grosso. Ugualmente allora mi sembra di dover dubitare del mostro saccente di Stargate, no? È l'immagine che ci facciamo noi oggi della memoria, così come ce la descrive Oliverio, che ci fa capire come la socializzazione o la proibizione della scrittura possano aver avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di una collettività. Ma